Cantieri di Carità e Giustizia. Concludiamo con questa puntata il percorso nei cantieri di Carità e Giustizia, almeno per questa parte dell'anno. Evidentemente il progetto è appena cominciato, lanciato dal Vescovo Claudio alla fine della scorsa estate. Sono stati pubblicati due quaderni con una prima analisi appunto della situazione e una mappatura delle realtà che si occupano di poveri ed emarginati in città di Padova. La mappa ci restituisce una realtà ricca di capacità e di talenti. Oltre al Comune di Padova e al Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, la città di Padova, abbiamo raccontato in queste settimane, può contare su almeno 75 organizzazioni più o meno grandi che agiscono a contrasto della povertà e soprattutto non operano da sole ma in collaborazione con altre, e abbiamo parlato nelle scorse settimane proprio delle reti e delle collaborazioni. Sono stati molti contatti e sono molti, almeno 4 collaborazioni per ogni organizzazione. C'è anche una frequenza molto intensa di questi contatti. Nel 26% dei casi i rapporti sono più volte alla settimana, se non addirittura tutti i giorni. Questa è una rete articolata e preziosa per costruire il futuro, ma che può essere migliorata e potenziata soprattutto nella componente del privato profit. Esiste anche questo, cioè il non profit e il privato profit. Appartengono solo il 3% a questo settore delle collaborazioni in atto. Si collabora per aiutare meglio le persone, ma anche per scambiarsi informazioni o consulenze. Sono organizzazioni tuttavia che si sentono fragili, 75 abbiamo detto in città di Padova, però si sentono fragili, incapaci di affrontare la povertà. Questo lo dice lo dicono i 2/3 degli interpellati. Per questo i rappresentanti delle organizzazioni, delle associazioni, vorrebbero ulteriormente potenziare le collaborazioni per offrire più risposte al problema del lavoro, che è il principale problema oltre a quello economico. Problema che viene riscontrato nelle persone povere che vengono aiutate. La fragilità è dovuta essenzialmente a 2 aspetti: innanzitutto al tipo di interventi che queste associazioni erogano, interventi preziosi ma che rispondono spesso solo a bisogni immediati ma non risolvono alla radice il problema. C'è poi una questione di sostenibilità dell'organizzazione, sia come risorse umane, il 70% sono volontari prevalentemente sopra i 50 anni, e poi risorse economiche, perché arrivano risorse dall'esterno solamente per il 40% degli enti coinvolti. Capacità e talenti a servizio della povertà, questo è il sottotitolo appunto del quaderno numero 2 distribuito poco prima di Pasqua. Da qui dunque è partita la rilevazione, una rilevazione che mette a disposizione delle risposte preziose, che parla di quantità, di qualità, di valore e di valori a disposizione, di talenti e di potenzialità. Non conoscerli, come è stato fino ad ora praticamente, espone al rischio di non valorizzarli e non moltiplicarli. È quello che dicevano appunto le organizzazioni: ci sentiamo sole, non riusciamo a dare risposte strutturali. Rispondiamo all'emergenza, sì, magari lo facciamo anche bene, ma non riusciamo a risolvere, a incidere proprio sulla causa dei problemi di povertà. Esserne consapevole appunto di queste risorse che sono a disposizione espone al rischio di sentirsi appagati da questa ricchezza, che da sola però non basta ad affrontare il problema. Serve un cantiere di carità, da cui il nome del progetto voluto dal Vescovo Claudio, e non solo una fila di pietre vive ma magari anche di persone da utilizzare. Serve un cantiere di giustizia, carità e giustizia, per evitare che qualcuno possa pensare che tanto ci penseranno altri. Questa mappa dunque è una sfida preziosa che aiuta a posizionarsi, a riconoscere i vuoti, i pieni, a orientarsi e a far incontrare le capacità di chi aiuta e le capacità di chi chiede di essere aiutato. Non è stato facile ottenerla questa mappa, ma la collaborazione di tutti ha trasformato molti dati parziali in un vero e proprio affresco territoriale della città di Padova. Una città solidale che da invisibile diventa visibile, perché queste cose non si sapevano. Tanti strumenti che possono armonizzarsi tra loro e diventare orchestra, capacità molto più grande di lottare insieme con i poveri contro la povertà. Chi opera nelle diverse organizzazioni giustamente si sente insufficiente, non all'altezza di una sfida in cui le richieste di aiuto sono molto più grandi delle risorse a disposizione. Ma si tratta di risorse materiali al netto delle capacità che invece insieme possono fare la differenza. Le distanze possono essere colmate con pratiche collaborative, modulando le capacità di aiuto dall'emergenza all'aiuto successivo, radicato nella vita quotidiana delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di povertà e deprivazione. La maggiore collaborazione non sarà la soluzione, ma certo potrà favorire modi migliori e più efficaci di lottare contro la povertà con i poveri. Questo potrà fare la differenza e rendere possibile il concorso al risultato, necessario e strategico per quanti hanno capito che non possono aiutarti senza di te. Il grande valore umano e economico delle capacità dei talenti documentati in questo quaderno numero 2 offre una misura di quanto e di come potranno essere incrementati nella sfera pubblica. Abbiamo detto c'è il comune presente e domenica si vota a Padova per la scelta del sindaco, ma potranno essere incrementati anche nella solidarietà privata. La seconda, la privata, non è inferiore alla prima, quella pubblica, perché il valore economico stimato con molta prudenza è considerevole, destinato ad aumentare. Parliamo di un valore di qualche milione di euro. Al pubblico sarà chiesto di fare altrettanto, potendo scegliere tra aumentare il valore o aumentare il rendimento, gli esiti e i risultati sociali del proprio operare. Se il valore in input, cioè in entrata, non sarà facilmente incrementabile, almeno in tempi di crisi della finanza pubblica, certo dovrà essere quello misurabile in termini di esiti, di risultati e di impatto sociale. Sarà monitorata sia questa, sia l'entrata che l'uscita, condividendo i risultati, le capacità, le responsabilità, i talenti che li hanno resi possibili. E questo dunque è il percorso col quaderno numero 2, ne seguiranno evidentemente altri ed è un progetto, questo di Cantieri di Carità e Giustizia, di cui torneremo a parlare sicuramente dopo l'estate. Cantieri di Carità e Giustizia.